Essere e benessere di Nicoletta Carbone. 11:09, un altro numero. Noi siamo circondati dai numeri. Io ci stavo proprio pensando, non so se ne avete avuto occasione di pensarci anche voi, la data di nascita, gli anni, il peso, l'altezza, il numero di scarpe, la taglia, il numero di carta d'identità, della patente, la targa, il numero di cellulare, il PIN, la password, numeri, numeri e ancora numeri. 3 per 5, 25, 6 per 3, 33, 2 per 8, 48, 3 per 9, 29, 6 più 2, 42. Quanti numeri riuscite a tenere a mente? Tanti, immagino, anche senza rendercene conto, ma fate un pochino di spazio, trovate un angolo perché ne aggiungeremo altri oggi, sì, dei numeri preziosi per la nostra salute e per il nostro benessere. In studio con me, sono molto contenta perché c'è il dottor Carlo Gargiulo. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Numeri, numeri, numeri. E la carta di credito e il bancomat non ce l'hai messi? Io ho messo il PIN. Ok. Dottor Gargiulo, ci sono dei numeri che ci danno proprio un quadro della situazione. Sì, sicuramente, quelli che noi chiamiamo i numeri della salute, fondamentalmente. In medicina non sono tante le cose che si misurano con i numeri, ma alcune sono fondamentali, ad esempio la pressione. Non dobbiamo dimenticarci che questo è un numero per noi importantissimo, 145-85, poi anche qua varia di anno in anno, lo tendiamo sempre ad abbassarlo un pochino, ma io continuo a dire 145-85 è un buon risultato per chiunque ed è un valore che ci consente di dire che il nostro cuore sta funzionando bene, non fatica, non lavora con troppo sforzo e manda il sangue in circolo per tutte le parti. Ancora un numero che noi misuriamo quando abbiamo in questo periodo influenza è la temperatura, non dimentichiamocelo, il fatidico 37 che è il punto di passaggio fra febbre e non febbre, quel 37.1, 37.2 per cui non andavamo a scuola, ve lo ricordate un po' tutti, no? Certo, lo facevamo salire anche un po', C'erano dei trucchi simpatici, sì. Per cui anche quello è un numero che è estremamente importante da tenere presente. Sono quei numeri che noi appunto misuriamo e che spesso con il nostro medico ci aiuta a definire il percorso della salute. Ci siamo? Volete dare i vostri numeri? Al nostro numero verde si intende 800240024. Cercate di ricordare. Allenerete anche la vostra memoria, come a dire due piccioni con una fava. Sono innamorata. Sto avendo un'avventura con la mia pizza. Tu invece sembri in crisi con la tua. Che ti prende? Non posso. Come sarebbe? È una pizza margherita a Napoli. È un imperativo morale mangiare e goderti la pizza. Vorrei, ma ho tipo 5-6 chili in più. E li ho messi tutti qui, sulla pancia. Come si dice? Qual è la parola più adatta? Una ciambella. 800 24 00 24 00 24, se volete dare i numeri con noi, i numeri della salute, perché la salute dà anche un po' i numeri, ma se la memoria non vi aiuta non perdete il giro, misuratevi subito il vostro giro vita, dottor Gargiulo. Esatto. E basta poco, un semplice metro da sarta. Esattamente, basta un metro da sarta per dare una misura che è la misura del grasso che si accumula sul giro vita, che è poi quel grasso viscerale cosiddetto, che è quello più dannoso e più pericoloso. Quindi il numero 102 per gli uomini e 88 per le donne, i due limiti al di sopra del quale parliamo di grasso viscerale, sono quelli che ci consentono anche qui di valutare come possono stare le nostre arterie, soprattutto le nostre coronarie, quelle arterie importantissime per il cuore. Un altro elemento importante è il cosiddetto BMI o indice di massa corporea in italiano, che è il valore, il rapporto fra il peso e l'altezza. E qua entrano in campo le calcolatrici sicuramente. Sì, perché noi avevamo imparato una formula e adesso qualcuno, un matematico, il professor Tefreten, docente di analisi numerica all'Università di Oxford, ci cambia un po' le carte in regola, sì, in campo. Sì, perché prima noi facevamo il rapporto fra il peso e il chilogramma e l'altezza espressa in metri elevata al quadrato. Questo nostro simpatico professore ci ha detto che invece il peso in chilogrammi va moltiplicato per 1,3, e fino a qui ci siamo, non è difficile. Ma l'altezza... Sempre con la calcolatrice. Certo, non dimentichiamola mai. Ma l'altezza, sempre espressa in metri, deve essere elevata a 2,5. E io qua mi sono arreso, perché anche la mia matematica si ferma. Allora, aiutateci voi. Noi siamo bloccati perché non abbiamo avuto abbastanza impegno nello studio della matematica. Siamo cocciutamente ignoranti su questo fronte. Quindi se qualcuno di voi ci dice come si fa a elevare un numero a 2,5, è giusto? Sì, noi siamo siamo contentissimi di saperlo. Così aiutiamo anche il dottor Gargiulo, che magari con questa formula dovrà confrontarsi. Secondo lei... a quale formula possiamo fare affidamento? Allora, alla vecchia o alla nuova? Io sono andato a vedere un po' le differenze fra la nuova e la vecchia e ho trovato anzi un simpatico sito, non ve lo cito perché è troppo difficile, ma basta scrivere Tefeten con la H fra la T e la E e BMI, a quel punto esce questo sito dove c'è un calcolatore che consente di dare i nuovi numeri accanto ai vecchi numeri. La differenza non è tanta, onestamente, forse un po' più ai gradi estremi, addirittura i nuovi numeri sarebbero anche un po' più gentili nei confronti di chi è leggermente in sovrappeso. Insomma, io dico accettiamo anche quello vecchio, va bene se è più facile fare il conto, l'importante è vedere quali sono i valori che ci indicano il sovrappeso e l'obesità, perché la tabella è rimasta la stessa. 800 24 00 24 se volete intervenire dando i vostri numeri, ma dottor Gargiulo, io ne aggiungerei un altro. Abbiamo parlato di indice di massa corporea, vecchio nuovo calcolo, non ha importanza. Abbiamo parlato di girovita. Io vorrei aggiungere un altro numero, cerchiamo di fare un confronto. Com'è cambiato negli ultimi, mi dica lei un numero, 10 anni? Perché sicuramente conta anche la velocità. Con cui cambiamo forma e distribuzione anche del nostro grasso. Certo, sicuramente una delle cose che lamentano spesso le donne che vanno in menopausa è che accumulano il grasso in modo diverso, tendono ad appoggiare questo grasso sulla circonferenza di vita. Gli uomini col passare degli anni, anche quelli che magari facevano sport, attività fisica da giovani, si trovano a questo peso che viene ad accumulato. Ecco, allora qui non è tanto importante il numero, qui è importante la differenza, cioè vedere che cosa è successo nell'arco di 10 anni e come il peso è aumentato e dove si è appoggiato questo grasso. Insomma, care amiche, cari amici, cercate di ricordare. Grazie a Dio non mi ha riconosciuto. Ci ho fatto Chicago, New York insieme 5 anni fa ed è stata la notte più lunga della mia vita. Perché mai? Ci ha provato con me e quando gli ho detto di no, dato che stava con una mia amica... Oddio, non mi ricordo il suo nome. Non ti mettere con me, Joe, ho 26 anni e non mi ricordo nemmeno il nome di una ragazza di cui ero tanto amica da non voler andare col suo fidanzato. Nomi e soprattutto i numeri sono difficili da tenere a mente perché sono oggetti astratti e diversamente dalle informazioni concrete, come insegna il professor Iannoccari che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei Nicoletta, ospite e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ecco, dicevo professore che i numeri sono oggetti astratti, a differenza delle informazioni concrete sfuggono naturalmente alla presa della nostra memoria. Ci aiuta a memorizzare i numeri, a trovare magari dei piccoli escamotage, perché i trucchetti ci sono professore? Sì, ne abbiamo diversi, ne possiamo contare almeno cinque, ma io vorrei proporvene tre, che sono molto molto rapidi e di facile applicazione. Ad esempio, il primo può essere quello di utilizzare un jingle, cioè una musichetta quando si dice un numero, è quello che noi facciamo quando proponiamo il nostro numero telefonico. Cosa facciamo? Diamo una musica alla sequenza dei numeri. Infatti, se qualcuno ce li ripete con una punteggiatura diversa, noi non lo riconosciamo più. È vero. Non lo riconosciamo più, dobbiamo dire: aspetta un attimo che verifico. Aspetta, che io lo dico in un altro modo. Funziona se è vero. Funziona così, è come l'824-0024, no? Cioè diamo una musicalità. È quello che facevano anche le pubblicità delle aziende telefoniche, per intenderci, per inculcarci i loro numeri utili. Poi un secondo metodo è quello di ragionare sui numeri, ossia trovare quei collegamenti logici nella successione numerica. Ad esempio il numero 369-2718. È un numeraccio detto così, però se noi iniziamo a vedere che ci sono dei collegamenti, ad esempio 3 più 6 uguale a 9, 9 meno 2 uguale 7, più 1 è uguale a 8, quindi 3, 6, 9, 2, 7, 1, 8 diventa una sequenza abbastanza facile da tenendo ricordare. Tenendo conto, professor Iannoccari, che se già ci esercitiamo a trovare queste relazioni, ci allenia, è già un allenamento. È un bel allenamento, sia per memorizzare i numeri, ma anche per trovare nuove associazioni, quindi anche le abilità di ragionamento ne giovano. Poi un altro utile metodo è quello di creare delle storie, soprattutto con i numeri che vogliamo ricordare per lungo tempo. Ogni numero può essere associato a qualcosa. Allora, noi proviamo a costruire con queste associazioni una breve storia. Ad esempio, 02, 25, Milano, perfetto. 25, Natale. Benissimo. 18. Dica gli anni di mia figlia. La maggiore età. Poi? La maggiore età. 27. Giorno di paga, fantastico. A me non pagano il 27. 70, le gambe delle donne. Evviva! Evviva, ce l'abbiamo fatta. Allora, con una piccola storiella, io questo numero non lo dimentico più. Ad esempio, visiterò Milano a Natale quando sarò maggiorenne e finalmente con il mio primo stipendio potrò uscire con una bella ragazza. Con le belle gambe. Questa è magnifica, professore, complimenti. Grazie, dottor Gaggiuno. Allora, professor Iannoccari, quindi l'invito è giocate con i numeri, esercitatevi. Sì, rendeteli concreti e facciamolo iniziando dai nostri tre numeri principali, quelli che utilizziamo più spesso, che chiamiamo più spesso, quindi troviamo dei collegamenti logici o una musichetta oppure una storia da raccontare e poi possiamo farlo anche in qualsiasi momento, ad esempio quando passeggiamo, siamo in auto, leggiamo i numeri delle targhe. Sì. E con quelli facciamo i nostri giochetti. Ognuno di noi ha una predisposizione maggiore per un metodo piuttosto che nell'altro. Basta scoprirlo e poi tutto diventa più facile. Quindi sperimentate, professor Iannoccari. Sempre. Grazie, buona grazie giornata. Arrivederci. Grazie, buona giornata, buongiorno. Sentiamo i numeri di Andrea che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Sentivo che parlavate di numeri e mi venivano in mente i numeri del colesterolo. Si parla di colesterolo buono, di colesterolo cattivo, di colesterolo totale. Insomma, quali sono i numeri importanti? Quali sono le soglie da tenere sotto controllo? E se non, è vero. Se non si tengono sotto controllo, cosa che cosa succede? Che cosa si fa? È vero, il colesterolo un po' ci frega, perché bisogna ricordarsi tre numeri, o almeno voi ci insegnate che un numero non basta. Esatto, è importante ricordarsi il valore del colesterolo totale, che deve essere inferiore a 200, del colesterolo LDL, cioè quello cattivo, che deve essere inferiore a 100, e del colesterolo HDL, che deve essere superiore ad una certa soglia, che normalmente è intorno a 60. Questo perché sono i valori che ci danno la situazione delle nostre arterie. Quindi tre numeri estremamente importanti da non dimenticare. Abbiamo Patrizia che ci chiama da Reggio Calabria. Buongiorno Patrizia. Buongiorno, mi sentite? Noi bene. Ah, benissimo. Senta, io intervengo solo per la faccenda dell'elevamento alla 2,5. Ma ha visto che il dottor Gargiulo è proprio è in grande difficoltà. Io non ci ho neanche provato. Ci aiuti lei. Allora, quindi abbiamo un insegnante di matematica. Sì, immagino. Sì. Allora, sì. Visto che vi posso aiutare per il 2,5. Se già fosse 2,7 magari diventerebbe più complicato. Però visto che 2,5 è la metà di 5... esistono delle formule matematiche per cui basta elevare il numero che si voleva elevare alla 2,5 alla quinta, quindi moltiplicarlo per se stesso 5 volte e di questo numero estrarre la radice quadrata. Questi calcoli si possono anche fare con una normale calcolatrice che abbia la moltiplicazione e la radice quadrata. Nel frattempo uno è dimagrito perché ha bruciato e i neuroni sono svenuti. Serve una calcolatrice scientifica dove c'è il tastino X alla Y e allora uno mette il valore di base e quello a cui si vuole elevare. Senta, ma lei si trova proprio bene con i numeri, vero? Per fare l'insegnante di matematica, ha una passione. Ma non è detto che abbia una particolare memoria, ecco, per i numeri. Se sono legati a qualcosa di logico, allora diventa molto più semplice. Però ci sguazza, sì, Patrizia. Sì, sì. Ha dato questa formula con grande soddisfazione. Sì. Io mi sono sentita un po' un asino. Io anche ho pensato bene di rifare la mia maturità. grazie mille a Patrizia che ci ha svelato la formula dell'elevazione alla 2,5. 5. 800 24 00 24, io vorrei proporre ai nostri ascoltatori di raccontare, sono le 11.23, il loro inizio di giornata in numeri. Mi spiego. Sì. Quante ore avete dormito stanotte? Quanti caffè avete bevuto? Quanti passi avete fatto? Oppure scale, rampette di scale a piedi? Quante fermate di autobus da cui siete scesi prima per camminare? Insomma, quanto movimento tradotto in numero avete fatto? E aggiungerei anche quante sigarette, per chi fuma, avete già fumato? 800 24 00 24. Dottor Gargiulo. Sì, ci piacerebbe avere questi numeri perché ci danno l'idea di quello che sta succedendo in un inizio di giornata. Ma la cosa interessante, fermiamoci sull'ultimo di questi numeri, cioè sulle sigarette. Ci piacerebbe intanto avere una risposta zero da tutti, e questo sarebbe auspicabile, ma se non abbiamo questa risposta, un consiglio che possiamo lanciare agli ascoltatori è quello di segnare il numero e l'ora a cui l'avete rilevato oggi e rifare lo stesso controllo domani e dopodomani per vedere se piano piano riuscite a fare un percorso virtuoso, che è quello che vi porta ad allontanarvi da un'abitudine voluttuaria che è estremamente pericolosa e che può recare dei danni anche gravissimi al nostro organismo da tutti i punti di vista: i polmoni, il cuore, la circolazione. Quindi ecco, è importante ricordarsi della nostra puntata di Radio 24 e di ricordarla giorno dopo giorno quando risentite Radio 24 per abbassare il numero delle sigarette. E a proposito, vi abbiamo anche chiesto di ricordare qual era il vostro girovita. Qualche anno fa il dottor Gargiulo ha dato una data, un tot di anni, dieci anni, abbiamo fatto cifra tonda, e chiamateci. Silvano ci chiama da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Guardi, no, io usavo un sistema particolare sin da bambino, accoppio, perché ho molta memoria fotografica, accoppio i numeri dei colori, o per meglio dire, delle tonalità di colore. Mm. E io mi ricordo quindi a blocchi fotografici, come se li vedessi i numeri. Pantone è il sistema che si usa per la numerazione dei colori. Pantone potrebbe essere, però ho trovato che è molto efficiente, mi funziona. Credo che il problema sia legato molto però all'uso della memoria fotografica. Io uso tantissimo un'immagine che è come se mi rimanesse impressa l'immagine di quel numero. L'immagine di quel numero e poi usa il colore. Quindi... Il colore dei numeri è anche molto bello, è molto, molto poetico, fra l'altro. Mi faccio un esempio, Silvano, così proviamo anche noi. Ecco, per dire, l'1 è un colore freddo, il 2 è ancora più scuro, tendente magari al blu, il 3 andiamo già su una colorazione calda, il 4 potrei identificare quasi un marrone come colore, il 5 è un colore caldo, il 6 freddo, il 7 di nuovo caldo, l'8, 9, l'otto tendente al verde, non lo so, io mi sento così, l'immagine. Lei li vede così, e quindi ciascuno può fare il suo accoppiamento. Ma quindi Silvano, se io le dico blu, giallo, marrone, verde, lei che numero mi dà in cambio? Blu tendo, potrebbe essere il 2, sì. Il giallo il 5 forse, marrone il 4 e... Ha detto il verde l'8. Sì, il verde è l'8, me lo ricordo. 2548. E viene 2548, chissà, magari sono numeri fortunati. Grazie Silvano. Grazie. Arrivederci. Ma quasi quasi me li gioco. Se la somma della targa di un'auto è 20, dottor Gargiulo, sì. Cosa vuol dire? Che qualcuno ti pensa. È da 40 anni che somma le targhe, ci scrive Anna, e funziona così. Quindi numeri, colori, numeri abbinati, associati, sommati, che ci raccontano qualcosa anche di noi e della nostra vita, come i numeri che vi abbiamo chiesto di darci all'800 24 00 24, numeri vari, girovita, indice di massa corporea, con la vecchia o con la nuova formula. Ecco, ricordando che la tabellina rimane sempre la stessa, quindi fino a 25 siamo in un normo peso, sopra 25 inizia il sovrappeso, sopra 30 inizia l'obesità. Abbiamo parlato anche di ipertensione, o meglio dei valori della pressione, certo. Ecco, perché non è detto che sia alta, no, occorre ogni tanto misurarla. Sicuramente almeno una volta l'anno per chi ha una pressione normale, più spesso per chi ha tende verso l'alto. Il nostro ascoltatore ci ha detto: per il colesterolo ci fate lavorare addirittura tre numeri, quello totale, quello buono, quello cattivo. Non abbiamo parlato di glicemia, ma ne faremo sicuramente, ne avremo occasione nel corso della trasmissione. Abbiamo già Federica dalla provincia di Latina e Luca dalla provincia di Venezia, che voglio salutare e ringraziare. Pronti con i vostri numeri, ci sentiamo dopo mercati, meteo. Ritorniamo qua con Pietro alla Corte, finalmente. Essere e benessere. La matematica è il mondo reale, capisci? Dappertutto. Vuoi una dimostrazione? Prego. Vedi che i petali fanno una spirale? Il numero di petali in ogni fila è la somma delle due file precedenti. La sequenza di Fibonacci. La matematica è il linguaggio della natura, il suo metodo per comunicare direttamente con noi. Nell'universo ogni cosa ha un numero. Ogni cosa ha un numero, ma datemi voi i vostri numeri. Al nostro numero verde, Federica dalla provincia di Latina, Luca dalla provincia di Venezia. Federica, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che ogni cosa ha un numero, ma ogni numero ha un disegno. Nel senso che tu fai un numero di telefono, vedrai, sì, che 9 su 10 c'è un numero. Sì, buonanotte. Sì, un disegno. Provo con il mio di cellulare. Sì, fatelo anche voi se potete. Io non lo vedo tanto il disegno. Ma però se sulla tastiera, diciamo, per esempio, il numero è 6985, quindi fai un quadrato. Ah, sulla e tastiera. E poi, che ne so, 53 e fai un triangolo. Ecco, ma questo può essere un allenamento anche molto utile, io penso, no? Anche per cercare un po' le forme, allenare, come ci diceva il professor Iannoccari, associare e sommare i vari numeri. Grazie dello spunto, Federica. E poi anche un'altra cosa, quando guardo le targhe, che mi è venuto in mente prima con l'intervento dell'altra signora, c'era un 20, e poi... nella combinazione delle quattro lettere c'era un'altra parola. Allora, 20, Federica, c'è qualcuno che la pensa. Questa se lo porti a casa, la penseremo anche noi quando digiteremo i numeri sulla tastiera in cerca dell'immagine, del, sì, disegno più che dell'immagine. Luca, dalla provincia di Venezia, buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Il mio vuole essere un intervento un po' curioso. Io con i numeri ci lavoro ogni giorno, faccio il bancario, sì, e trovo curioso che molti dei miei clienti, anche a distanza di anni, non si ricordino il proprio numero di conto corrente, malgrado questo numero sia estremamente semplice. Parliamo di quattro cifre, e qualche volta naturalmente il numero è intero, quindi non so, 1600 piuttosto che 1000 o 950. Nessuno si impegna, malgrado a volte gli si consigli di ricordarlo per non scriverlo, per, sì, non avere ogni volta la necessità di andare in cerca noi come archivi, eppure sembra una cosa assolutamente difficile, perché probabilmente c'è una sorta di pigrizia che porta a non voler comunque memorizzare, sì, un numero che... non voler andare a vedere che cosa c'è dentro, perché è sempre rosso, è sempre... abbiamo comunque la paura del rosso. Io sono uno di loro, perché io non me lo ricordo, il mio numero di conto corrente. Io ce l'ho, del mio a tre cifre, è possibile, Luca? Può essere, perché no? Okay. No, perché mi ha detto quattro, dico, ma allora io che numeri do? Cioè, grazie, Luca. Sì. Ci sono lunghezze diverse, ovviamente, ogni istituto ha la sua numerazione. Grazie Luca per essere intervenuto. Dottor Gargiulo, ecco, vede, la fatica di ricordare i numeri, sì, insomma, quando la memoria è un po' facilecca, certo, numeri, certo, o non numeri, ci passiamo sopra o magari in alcune volte tendiamo a preoccuparci troppo, ma ci dà delle indicazioni. Sì, ci dà delle indicazioni estremamente importanti. Una regola abbastanza semplice è quella di capire se memorizziamo facilmente i nuovi numeri di telefono o ricordiamo solo i vecchi. Perché se memorizziamo i nuovi significa che la nostra memoria recente funziona e continua a funzionare bene come quando eravamo più giovani. Se invece ricordiamo soltanto i vecchi numeri di telefono e quelli nuovi fatichiamoci, dobbiamo annotare, allora può essere un segnale di qualcosa che sta decadendo un pochino, cambiando, sì, un pochino. Si sta un po' arrugginendo. Esatto. Per cui possiamo allenarlo. Esercizio. Per esercizio, questo facciamo esercizio, le puntate, certo, di allenamento al cervello. Ci sono tanti esercizi anche sulla pagina di Essere Benessere, delle puntate che abbiamo fatto con il professor Iannoccari, ne faremo altre. Inviteremo anche il dottor Gargiulo, così, volentieri, ci sfidiamo io e lei. Ah, magari. Poi mi lascia vincere, però. Arcangelo dalla provincia di Ragusa. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Siamo qui. Senta, io ho altri due numeri da aggiungere con i quali combatto. Il PSA. Il PSA per la prostata. Grande richiesta, parliamo di prostata. Dottor Gargiulo, anche lei ha i suoi numeri. Sì, certo, il PSA è un valore estremamente importante. PSA è un antigene prostatico specifico che serve a controllare la situazione a livello della prostata, soprattutto per quello che riguarda i tumori maligni della prostata. Un aumento del PSA può essere un segnale importante per capire se dobbiamo fare qualcosa in più, ad esempio una biopsia prostatica, sempre ovviamente con la valutazione dell'urologo. Un numero di riferimento non lo possiamo dare con precisione perché varia da laboratorio in laboratorio. Al contrario del colesterolo che è fisso e standard, o della glicemia che è standard anche quella, per il PSA bisogna vedere i valori di riferimento che sono scritti accanto al valore riscontrato nel sangue. Una cosa però la possiamo dire: se il vostro PSA è normale, cioè rientra nei valori di riferimento, non leggete gli altri due numeri, cioè il PSA libero e il rapporto. Non hanno nessun significato. Fate finta di niente. Esatto, esatto. Ecco, due numeri di meno. Che ne pensi? Carino. Andiamo. Carino, tutto qui. Aspetta, è meglio che ne cerchi un altro. Non hai sentito? Vuole chiudere il negozio. Lo so, ma scegliere il portafortuna giusto è una decisione molto importante. Se sono tutti portafortuna, non è possibile sceglierne uno che porti sfortuna. Sai che domani ho un colloquio di lavoro e il talismano portafortuna ti aiuterà a ottenere quel posto. Ci sono numeri che portano fortuna e numeri che ci portano salute. Di solito hanno quattro cifre, sono i famosi 5.000 passi. Dottor Gargiulo, noi stiamo camminando, abbiamo fatto una puntata proprio sull'importanza del contapassi, mettere questo apparecchietto alla cintura, esatto, e dimenticarselo per poi andare a riprenderlo alla sera e leggere il numero che c'è scritto e cercando proprio di puntare in alto dopo i 5.000, puntare agli 8.000 e arrivare al numero fatidico che sono i 10.000 passi al giorno, che sarebbero l'ideale. Però se già raggiungiamo i 5.000 abbiamo già fatto un grosso lavoro che serve proprio per portarci e farci proseguire. Ma i 5.000 passi si raggiungono anche con gesti semplici. Oggi ad esempio, venendo qui, io sono uscito dalla metropolitana e salivo le scale e guardavo che tutti salivano sulle scale mobili. Facendo le scale a piedi io ho impiegato meno tempo che aspettando la scala mobile tutti in fila regolare, ho fatto un pochino più di esercizio fisico rispetto ad altre persone e già quello mi vale, va messo nel paniere dei nostri passi quotidiani. E quindi 5.500, esatto, 6.000, esatto. Se in un balzo si arrivano agli 8.000, e in linea con noi abbiamo l'unico alpinista della storia che ha raggiunto tre cime di 8.000 metri in completa stagione invernale. In linea con noi abbiamo Simone Moro. Ciao Simone. Ciao Nicoletta. Oh, sono molto contenta di trovarti qui perché anche tu sei chiamato a raccontarci la tua giornata in numeri. Allora, prima si parlava di passi. Sì. Allora, il mio numero, che è di due cifre, non è di quattro, è il 21. Il 21, che ho scoperto essere un nome abbastanza ricorrente, perché 21 sono i chilometri che ho appena fatto stamattina. Sono circa, visto che l'ho fatto in montagna, ogni passo non è proprio un metro, si fa parecchio di meno, quindi sono sui 40.000 passi. 40. E quindi 40.000 è stato l'allenamento di stamattina. Mettiamo 35 perché poi in discesa lo allunghi un po'. E poi il 21 è anche il giorno che identifica nel mese di dicembre l'inizio dell'inverno, quindi diciamo che per colpa di Nicoletta Carbone ho scoperto che il 21 è un numero che spesso ricorre, chiamiamolo così, nella mia quotidianità e nelle mie scelte alpinistiche. Sono onorata di averti fatto scoprire questa combinazione. Il dottor Gargiulo, che praticamente è svenuto quando ha sentito come me, ma anche Laura Vanossi dietro il vetro quando tu hai detto all'incirca sono 40.000, cioè eravamo già... Che cosa vedo che voleva intervenire? Ma sì, sono svenuto perché in realtà i passi di montagna è vero che sono più corti, ma valgono di più perché è chiaramente più faticoso camminare in salita e quindi il nostro organismo è impegnato ancora di più. Ecco perché svenuto in senso positivo, mi complimento, magari riuscissimo a mantenere questo livello. Però diciamo anche una cosa importante agli ascoltatori: non pensate di fare domani mattina una cosa del genere. Per arrivarci bisogna fare un allenamento graduale che ci porta a poter respirare meglio, migliorare la qualità della respirazione, perché in montagna sopra una certa altitudine si fa molta più fatica perché c'è una tensione d'ossigeno più bassa, quindi attenzione a non rischiare. Certo, Simone, qualche consiglio ai nostri ascoltatori? Sono d'accordissimo, infatti se dovessi dare un numero che è il 7, io mi alleno 7 giorni su 7, ogni tanto mi concedo qualche riposo, ma sono più dei recuperi attivi, nel senso che magari può esserci il giorno che non faccio lavori di muscolazione o lavori di preparazione aerobica e faccio più lavori di allungamento, rilassamento muscolare, che non vuol dire essere seduti sul divano, ma è un rilassamento indotto, chiamiamolo. Ci speravamo. Ma tu, scusami, ma qua, Simone, ma tu quanti minuti stai seduto o fermo? Guarda, mentre sto parlando con te sono forzatamente seduto perché sto scrivendo il mio libro e devo consegnarlo entro la fine del mese, se no l'editore mi spara. Allora, stai lì, che stai con noi, perché voglio saperne di più. Dopo le informazioni sul traffico a proposito di persone sedute, certo, noi ritorniamo con Simone Moro, straordinariamente seduto per noi. Essere e benessere. Raggiungiamo Simone Moro alla scrivania, che sta completando le pagine del suo libro, le ultime pagine, perché sennò sì, allora, l'editore... diciamo che sono le ultime pagine, così l'editore sta tranquillo, sì, però sta... dentro fra me e te, tanto ci ascolta qualche milione di persone, non sono proprio le ultime. Dai, quasi, quasi, ti stai avvicinando, pensando agli 8.000... Ecco, mi sto avvicinando pian pianino alla vetta. Ecco. No, sono seduto a scrivere questo libro, ma sai, quando con la coscienza dici ne ho già fatti almeno 40.000 di passi, e quindi ecco, non mi sento di rubare il tempo alla preparazione. Senti, è chiaro che bisogna saper fare tutti e due, perché se fossimo sempre solo in contrazione muscolare, il mondo non funziona solo con quelli che contraggono un muscolo, corrono, saltano o martellano. Ma tu, Simone, però di cose ne fai tante, perché scrivi, ti arrampichi su verso gli 8.000 oltre 3 volte, sempre in inverno, e sei diventato anche attore, proprio così, come fare un passo. No, è una parola forte, non vorrei essere rispettoso contro chi fa questa professione. Diciamo che ho deciso di usare un linguaggio diverso per raccontare le mie esperienze, quindi non solo quello narrativo o non solo quello fotografico o a videoclip quando faccio le mie conferenze, ma ho deciso di produrre un film quindi con il linguaggio filmico, dura un cortometraggio perché dura 24 minuti ed è un film che racconta, ha un titolo in inglese perché lo sto portando in giro un po' per il mondo, che si chiama Exposed to Dreams, vuol dire esposto ai sogni. E racconto di come vivo i miei sogni, sia quelli alpinistici, sia quelli di pilota di elicottero che sta cercando di portare il soccorso alpino in elicottero, quindi l'eli soccorso anche in Himalaya. Simone, ma sott'acqua, no? Mai? Sì, no, c'ho anche il brevetto PADI, l'ho fatto, e mi piace un sacco. E ti piace un sacco. Bisognerebbe capire cosa ha mangiato da piccolo Simone Moro, cosa ha letto, che favole gli hanno raccontato, che musica ha ascoltato. Ma a proposito, una curiosità, Simone, se posso, le temperature agli 8.000 in inverno, che cosa sono? Quanto si va sotto zero? Allora, quando si parla di ipotermia e non tanto di termoregolazione, ma addirittura di termogenesi, si parla perché ci sono sono arrivato anche a 56 gradi sotto zero. E quindi, oltre allo sforzo fisico, esatto, c'è anche tutto uno sforzo del corpo umano per riuscire a produrre calore e riuscire a produrre energia con substrati energetici, tra l'altro minimi, perché si è sottoalimentati e sottoidratati, quindi... Quelle situazioni non sono molto salutari, sarei falso a descriverle come salutari, o auspicabili, però si parla già di avventura, di esplorazione, non si parla più nemmeno di sport. Simone, mi arrivano tanti messaggi, te ne leggo uno che li racchiude un po', li rappresenta tutto. Fati, complimenti ad un grande alpinista, ma ancora prima a un grande uomo che adesso adesso scrive le pagine, però mettiti a scrivere. Adesso mi rimetto, mi torna a fare i compiti. Scriverò proprio dell'Everest, quindi mando così questo suggerimento. Guardate che quest'anno è il compleanno, ci sono 3 compleanni dell'Everest. I 60 anni dalla prima salita, i 50 anni della prima salita americana e i 40 anni della prima salita italiana. E scriverò di questo. E noi ti leggeremo e poi vieni qui una volta e poi ti facciamo camminare per lo studio, non ti teniamo fermo, ti arrampichi un po', ti aspetto, volentieri. Ti abbraccio, anch'io. Grazie. Ciao. Giuseppe ci chiama da Monza, buongiorno. È caduto? Buongiorno. Ah no, sì. Buongiorno a lei. Sono un vecchio di 56 anni e ho passato un pezzo della vostra trasmissione e volevo rimarcare come per quelli della mia età fosse abitudine, soprattutto alle scuole elementari, imparare pacchi e pacchi di poesia a memoria. La cavallina torna il 5 maggio, a mezzanotte scocca la mezzanotte santa e via. Vedo che adesso divento vecchio, non me lo ricordo più. Ma no, non è che si diventa vecchi, guardi quanti allenamenti abbiamo fatto, se li ricordo ancora tutte. Poi insomma 56 anni, no, dottor Gargiulo, che numero è 56 questo? 56 è un numero perfetto, eccezionale, a me piace tantissimo, anche perché l'ho superato da un po'. Notte di lacrime e preghiere. La matematica non sarà mai il mio mestiere. Per quelli che, come me, e anche devo dire un po' come il dottor Gargiulo, perché ho visto che siamo abbastanza simili con i numeri, la matematica non sarà mai il mio mestiere, i numeri aiutano a meditare. Sembra strano, ma assolutamente è un consiglio che ci dà Daniele Belloni, che è in linea con noi di Yoga e Meditation Training. Ciao Daniele. Buongiorno Nicoletta, ciao a tutti. Ecco, ricordiamo, complimenti a Daniele Belloni che sta ricevendo grande successo, ci ha suggerito una meditazione che abbiamo messo sulla pagina, i nostri ascoltatori ancora ringraziano. Quindi Daniele, grazie. Grazie a voi che praticate la meditazione. La più grande soddisfazione per colui che propone una meditazione è sapere che qualcuno la utilizza per la propria vita, per la propria quotidianità più serena, più felice. Senti Daniela, io dicevo i numeri aiutano a meditare, in realtà tante volte sono un vero e proprio rompicapo, ma ci aiutano a liberare in qualche modo la mente e a darci il ritmo, ad esempio il ritmo del respiro. Esatto, possiamo ad esempio applicare, Nicoletta, i numeri alla respirazione, come dicevi giustamente introducendomi, contando i respiri, perché contare i respiri aumenta il potere di concentrazione della mente e ci consente di divenire testimoni del nostro respiro in modo più efficace. L'osservazione del respiro, diciamo che automaticamente rende più lungo il respiro e il respiro diviene più profondo e armonioso. E questo ha il potere di azionare il sistema nervoso parasimpatico, che è il responsabile della risposta di rilassamento. Se mi dai il via, posso cominciare con la meditazione, Nicoletta. Dai, noi abbiamo un minuto di tempo. Ce la facciamo. Pronti anche voi da casa? Andiamo. Posizione comoda, con il capo, il collo e il tronco in allineamento. Se potete, chiudete gli occhi. Rilassate la fronte. Respirate in modo diaframmatico, espandendo e ritraendo con delicatezza l'area dell'ombelico e dello stomaco a ogni respiro. Espirando l'area rientra armoniosamente, senza sforzo. Inspirando si espande un poco, delicatamente, senza sforzo. Portiamo ora la consapevolezza al flusso del respiro nelle narici. Sentiamo che l'aria entra ed esce dalle narici e sentiamo la sensazione associata ai flussi, espirando la sensazione di calore, inspirando la sensazione di freschezza. E ora iniziamo a contare mentalmente i respiri. Espirando contiamo 1, inspirando 2, espirando 3, inspirando 4, espirando. tirando 5. Questo è il numero 5. Grazie a Daniele Belloni, grazie al dottor Carlo Gargiulo. Potete scaricare questo esercizio dalla nostra pagina. Pietro La Corte in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Grazie. Essere e benessere.